La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Buona domenica a tutti, questa è l'edizione domenicale della Rosa Purpurea, l'edizione domenicale post-veneziana. Ieri sera si è chiusa la 69esima mostra del cinema di Venezia con la vittoria di Kinky Duck per il film Pietà, un vincitore annunciato, possiamo dire, almeno nelle ultime ore i rumors si erano fatti sempre più insistenti. Ne parleremo fra poco, prima però tutti i contenuti della trasmissione nei nostri titoli di testa. Si è conclusa la 69esima mostra del cinema di Venezia, la prima sotto la guida di Alberto Barbera. Analisi e commenti sul palmarès che ha incoronato film e protagonisti della Kermesse del Lido. E di Venezia parleremo in questa puntata anche attraverso i film che arrivano in sala direttamente dal Lido. Su tutti, Bella addormentata di Marco Bellocchio, che incrocia le vicende umane e le domande morali di alcuni personaggi sullo sfondo delle ultime ore di vita di Eluana Englaro. Nelle sale, il nuovo film Disney Pixar, The Brave, Ribelle, storia di una agguerrita principessina che vuole farsi largo nella vita a suon di frecce scagliate contro i pregiudizi e il conformismo per ottenere la stima e la considerazione dei genitori. E torna sul grande schermo anche l'agente senza passato, Jason Bourne. Unico sopravvissuto al piano di annientamento dei tanti Bourne, l'agente Cross dovrà disintossicarsi da una serie di medicinali che ne controllano il cervello, con l'aiuto di un'avvenente dottoressa. It's my great pleasure to give the Golden Lion Award to Kinky Duck for his picture Pietà. E questo è l'annuncio del presidente della giuria Michael Mann, che ha così assegnato il leone d'oro a Kinky Duck, al suo Pietà, leone d'argento a The Master di Paul Thomas Anderson, che viene premiato anche con la Coppa Volpi ex aequo ai due protagonisti maschili, difficile dire quale sia più protagonista degli altri, Philip Seymour Hoffman e Joaquin Phoenix, Coppa Volpi al femminile ad Ash Yaron per il film Fill the Void, film israeliano, leone d'argento. Argento e premio per la regia Paradise Glaube di Ulrich Seidel, regista austriaco, film molto controverso e foriero di polemiche, ma soprattutto grande delusione per Marco Bellocchio per il suo Bella addormentata, che era accreditato di un premio, magari non del Leone d'Oro, ma di uno dei premi della giuria. Invece ne è rimasto bocca asciutta, addirittura superato, possiamo dire, in un certo senso da un suo allievo, quel Daniele Cipri, che come regista del film è stato il figlio, ha vinto il premio per il miglior apporto tecnico e anche ha visto premiare Fabrizio Falco come miglior attore emergente con il premio Mastroianni. Peraltro Daniele Cipri è il fotografo del film di Bellocchio e Fabrizio Falco è anche presente come attore nel film di Bellocchio, quindi, come dire, davvero una verdetto che sicuramente non può aver accontentato il maestro piacentino. Noi ne parliamo con i nostri colleghi che ieri ci hanno aiutato nelle ultime ore prima del verdetto. Siamo in collegamento con Leonardo Gandini, critico e storico del cinema. Leonardo, allora, ti convince questo verdetto della giuria di Michael Mann? Ma guarda, film di Kinky Duck era sicuramente uno dei più validi, belli e interessanti in concorso. Non il mio preferito, perché secondo me Bella addormentata era migliore, però uno dei migliori, e quindi da questo punto di vista il verdetto ci sta. Mi dispiace per il film di Bellocchio, che avrebbe meritato molta più attenzione da parte della giuria. Sono contento per il premio avuto dal film di Seidel, Paradise Faith, che è un film controverso, intrigante, ma a suo modo affascinante. Mentre per quanto riguarda The Master, francamente mi sento di condividere l'opinione della giuria, soprattutto perché Joaquin Phoenix ripropone in maniera stereotipata di film in film la stessa immagine di spostato mentale. Lo ha fatto in Signs come fratello di Mel Gibson, lo ha fatto nel Gladiatore come il cattivo della situazione, lo ha fatto in Walk the Line interpretando Johnny Cash. Si tratta fondamentalmente sempre della stessa interpretazione, delle stesse posture, degli stessi movimenti, degli stessi gesti, e quindi come dire, che questo venga premiato mi sembra francamente discutibile, mentre nulla da dire su Philip Seymour Hoffman. Grazie a Leonardo Gandini per il suo commento. Facciamo commentare il palmarès anche a Marco Lombardi, altro critico cinematografico in collegamento con noi. Marco, allora, sei d'accordo con la giuria di Michael Mann? Ma si sa che poi le giurie devono sempre lavorare di compromesso e di equilibri. Non sono d'accordissimo sulla distribuzione dei premi, ma questi comunque sono tutti film che in qualche modo meritavano un premio. E io amo Kinky Doc da sempre, dagli inizi. Questo però forse non era, come si diceva ieri, il suo film migliore. Credo che la giuria sia anche stata un po' condizionata emotivamente dalle vicissitudini passate, dal dramma che ha subito nel suo ultimo film di fiction, e che questo film, anche se Kinky Doc ha detto che parla del materialismo e del consumismo contemporaneo, secondo me è proprio un modo per raccontare quel suo dramma personale, perché nel film si dice che vedere una persona che soffre è peggio che soffrire in prima persona. Secondo me, adesso scendere sui singoli premi, perché i film sono tutti in qualche modo validi e quindi potrebbero tutti avere o un premio o l'altro, la regia o la sceneggiatura, insomma sono poi degli spostamenti minimi. Però secondo me sono stati dimenticati due premi. Io insisto, pensavo appunto, qualcuno anche lo diceva ieri, che Spring Breakers, che secondo me è cinema con la C maiuscola, prendesse perlomeno qualche riconoscimento. E io sono convinto che questo film avrà un suo percorso nelle sale e sarà anche riconosciuto altrove. E poi dico una cosa controcorrente, non se ne è mai parlato in questi giorni, però un giorno speciale della nostra Comencini è un film piccolo, semplice, fatto con pochi soldi, con una storia che sicuramente avrà un suo futuro commerciale e popolare per i giovani, per nulla banale, con un finale che addirittura credo che sia quasi meglio rispetto a quello del romanzo da cui è stato tratto. È un peccato che lì non si sia almeno dato un segnale, un piccolo riconoscimento anche minore per segnalare un lavoro che è un cinema italiano finalmente fatto bene e che ha anche dei risvolti in qualche modo morali, etici nei confronti di chi lo andrà a vedere. Bene, allora grazie anche a Marco Lombardi per il commento appunto sul palmarès veneziano. Così è finita Venezia 69, però alcuni dei suoi film arrivano già nelle sale cinematografiche italiane, ne parliamo fra poco, proprio a partire da Bella Addormentata. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea andiamo ad analizzare adesso i film che da Venezia, dalla Mostra del Cinema di Venezia, arrivano nelle sale cinematografiche italiane. La settimana scorsa avevamo detto che c'era solo un film che sarebbe uscito rimbalzando dal Lido durante questo weekend, era proprio Bella Addormentata. Se ne sono aggiunti altri due. L'intervallo è il B-Movie Shark 3D, visto fuori concorso in una proiezione di mezzanotte abbastanza partecipata. Insomma, sono diventati tre, però appunto non c'è ancora una grande massa di film che da Venezia si spostano nelle sale. Lo fa in maniera abbastanza convincente anche sotto il profilo, adesso del film ne parleremo, ma anche sotto il profilo della presenza in sala, Bella Addormentata di Marco Bellocchio, 250 schermi circa, quelli che lo programmano già in questo fine settimana, e chissà che poi invece una spinta non possa arrivare proprio sul film del Bellocchio dalle decisioni della giuria di Michael Mann. Noi siamo in collegamento con uno dei tanti attori di questo film, un film corale che segue i rivoli, i torrenti di diverse storie, tutte legate alla riflessione, come abbiamo sentito, sulla vita, sulla morte, sulla malattia, sui rapporti umani, sullo sfondo, ma solo sullo sfondo. Marco Bellocchio ha voluto prendere il necessario distacco e temporale e anche tematico. Sullo sfondo ci sono le ultime ore della vita di Eluana Englaro, vissute attraverso le discussioni fra i protagonisti, ma anche attraverso i telegiornali dell'epoca, una vicenda che ha tenuto un po' l'Italia, ha diviso un po' l'Italia proprio anche in maniera abbastanza viscerale. Sentiamo una clip e poi parliamo con Pier Giorgio Bellocchio. Signora, noi ci conosciamo bene. Quante volte ho ricoverato e dimesso sua madre? È inutile, non serve a niente. Avevo capito che la volevi uccidere. E ridi? Vuoi uccidere mia madre? Signora, perché mi dà del tu? Per non ricoverarla. L'ammazzano. Io voglio sapere chi vi ha dato l'ordine. Il direttore? Ma chi sei? Un medico o un capostazione? È un vigile urbano, No, non sono un vigile urbano, ma cosa le rispondo a fare? Buona serata e un saluto a Pier Giorgio Bellocchio. E come dice la clip, cosa sei? Qui in questo film è difficile, proprio difficile, perché è la grande domanda che ognuno dei protagonisti si fa di fronte a questo dramma immane che si sta consumando e che mette in moto meccanismi anche di analisi e di autoanalisi, Pier Giorgio. Sì, beh sì, diciamo, intanto salve a tutti. Il film propone comunque una riflessione universale sia sul cosa sei, ma anche su quello che poi è un principio fondamentale al di là della clip, che è quello della libertà di scelta. Diciamo che il tema centrale del film è quello fondamentalmente. Ecco, un tema che, come dicevo prima, si sviluppa attorno al grande evento storico, ma diciamo forse una delle cose proprio più riuscite anche del film è stato questa capacità di staccarsi, di entrare nell'animo dei personaggi senza raccontare per forza la storia di Eluana Englaro. Questo mi pare una delle cose che hanno permesso poi a ognuno di noi, a ogni spettatore, di identificarsi, di immedesimarsi nei vari personaggi che per ragioni anagrafiche, professionali, sono diversi, hanno un approccio diverso alla vicenda. Quanto ha contato nella unicità di questo film, questo approccio così più distaccato? Beh, è stato fondamentale, anche perché ha permesso a tutti noi comunque di fare un lavoro autonomo e indipendente da quella vicenda, che è l'ispiratrice, che è anche, come dire, il collante di tutte le varie storie, perché poi fa da sfondo e unisce le tre vicende separate. E ovviamente il fatto di riuscire a trovare questa chiave per cui si racconta anche quello, ma non è quello il centro del film dal punto di vista cinematografico, ha permesso sicuramente a tutti noi di lavorare in maniera, appunto, come dicevo prima, in maniera più libera, più autonoma, senza dover cercare di essere coerenti e nel raccontare quella storia in modo specifico. Quella storia è raccontata attraverso, appunto, come dicevi, i telegiornali, attraverso i quotidiani, attraverso alcuni accenni che i vari personaggi fanno rimandando a quella storia, però in qualche modo anche permesso all'autore, quindi al regista, di muoversi in maniera, appunto, più libera. Cioè, la parola libertà è il centro di questo film. Tu sei uno psichiatra? Sì. Uno psichiatra che dà le medicine. I malati di mente sono di una noia mortale, mortale in senso letterale, ti deve difendere. Se ti scusa, ma tu parli anche dei malati di mente che sono in Parlamento. Sì. Il popolo, che dovrebbero rappresentare, l'insulta, gli dà del ladro, del parassita. In realtà sono degli infelici, disperati. E non tutti rubano. Un dialogo Erlitzka-Servillo che ha riscosso un paio di applausi a scena aperta durante la proiezione per la stampa a Venezia, e non è una cosa facile, devo dire, ci sono stati proprio quasi è un dialogo molto bello e molto caratterizzante. Questo è uno dei personaggi forse più attaccato, quello di Tony Servillo, più attaccato alla vicenda di Eluana, perché appunto è nei panni di un senatore del PDL in crisi di coscienza, messo anche in crisi di coscienza da una figlia che vorrebbe che lui prendesse finalmente una decisione, con un grande rimpianto sulle spalle, che ovviamente noi non vi sveliamo perché il film svela delle cose anche durante il suo percorso. Pier Giorgio, com'è cambiata l'Italia dopo la vicenda Englaro? Intendo dire su questo fronte, sul fronte proprio della sensibilità a questo tema, è stato un punto di svolta quello? È stato sicuramente un punto di svolta, per come poi anche è stata proprio vissuta e per come Peppino Englaro ha voluto portare avanti la vicenda, quindi nella legalità assoluta. È anche vero che questo film è il primo grande tributo a questo eroico cammino di quest'uomo che ha voluto comunque smuovere e cercare di aggiornare, insomma, di far progredire culturalmente questo paese rispetto a alcuni temi che in altri posti in Europa e nel mondo invece sono già stati affrontati e sviluppati e risolti in qualche modo. Qui in questo paese, nonostante la vicenda di Eluana e la storia di Peppino Englaro, dal punto di vista pratico, tecnico ancora non si è fatto granché. Speriamo che con questo film si riesca a riportare l'attenzione su questo argomento e si riesca a fare qualcosa di concreto. Certamente dal punto di vista della sensibilità generale la vicenda di Eluana ha posto a tutti noi italiani un quesito, una domanda anche molto intima e personale. Nel momento in cui io mi trovassi in quella stessa situazione e volessi scegliere, lo posso fare? Attualmente non è così semplice. Grazie allora a Pier Giorgio Bellocchio e insomma in bocca al lupo per bella addormentata il suo percorso nelle sale. Crepi il lupo. E allora, questo era Bella Addormentata, senza ombra di dubbio, almeno per il cinema italiano, la più importante proposta di questo fine settimana in sala, quella su cui si giocano anche molte delle speranze di chi vuole vedere ancora un forte rapporto col pubblico nel nostro cinema, più capace di raccontare il nostro oggi, la nostra attualità, il paese che siamo e che stiamo diventando. Un film assolutamente consigliabile, anche personalmente, Bella Addormentata, seppure magari dei tanti rivoli che lo compongono, delle varie vicende, non tutte sono forti alla stessa maniera, ma si possono apprezzare qualità degli attori, la sempre grande capacità di scrivere cinema, immaginare cinema in termini visivi di Marco Bellocchio, che ne fanno comunque un film molto compatto e estremamente importante. Da Venezia però arriva anche nelle nostre sale un piccolissimo film, veramente un piccolissimo film come produzione, praticamente tutto girato in una sorta di vecchio collegio abbandonato nella periferia napoletana, si intitola L'Intervallo, ne sentiamo una clip. Ciao lo sono. Non c'è vinto. E quando ti è mangiato stanco lo cadino? Non so, fino a che un bel millo. Basta, pure il telefono stanno pigliato. Ma tu non tieni un telefono? Lo vedo fa, io non tieni un telefono. No, non mi dai. È caro di rindallà. Ma chi stai proprio scemo? Avete sentito un dialogo, anche in questo caso straordinario, fra due adolescenti che si trovano in un ruolo strano per entrambi. Il ragazzo, figlio di un venditore di granite ambulante, deve fare il carceriere sostanzialmente. La ragazza invece, una ragazza di periferia che aveva semplicemente fatto l'errore di innamorarsi di uno che non è di quella di quel quartiere, ma è di un altro quartiere che afferisce a un'altra famiglia della criminalità organizzata. Ebbene, la ragazza nei panni della carcerata per qualche ora, per un pomeriggio, tanto per darle una lezione, per farle un po' passare i bollenti spiriti, ma capiscono subito fra di loro che questa differenza non c'è e passeranno una giornata indimenticabile, davvero speciale. L'Intervallo del titolo del film di Leonardo Di Costanzo. Ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris, uno dei film che hanno maggiormente segnato il Festival di Venezia, cioè di quelle sorprese, di quelle piccole rivelazioni di cui poi dopo un festival può fregiarsi. Assolutamente sì, sono d'accordo. Intanto buon pomeriggio Franco, a te e a tutti gli ascoltatori. Probabilmente è una delle cose migliori del festival, tra l'altro nella sezione sicuramente che ha fatto vedere le cose migliori, perché se il concorso a Deluso Orizzonti invece ha fatto vedere cose molto belle, tra cui L'Intervallo, che ha entusiasmato riuscendo a fare con una trama simile a quella di Francesca Comencini nel terzo film italiano in concorso, qualcosa di molto speciale, cioè prendere due giovani, chiudere la Napoli della camorra, del disagio, fuori da questo ospedale psichiatrico, ex ospedale psichiatrico usato come location, che qui diventa una sorta di castello diroccato con un bosco incantato, in cui c'è una principessa ribelle che forse deve essere salvata, forse deve essere solo custodita. Cominciamo a conoscerli e lo facciamo con un esercizio secondo me di sceneggiatura straordinario. Quando ci si trova in questi film molto spesso c'è il problema che la sceneggiatura deve essere per forza scarna. Qui Braucci secondo me si inventa qualcosa di straordinario, non li fa parlare mai direttamente, loro parlano per storie, raccontano sempre qualcosa che indirettamente ci fa capire sempre qualcosa in più della loro loro vita e delle loro vicende. E così, proprio come una favola, anche se nera, si sviluppa questo film, con un regista, Leonardo Di Costanzo, a mio parere bravissimo a girare, con una sceneggiatura semplice e allo stesso tempo di ferro, molto molto bella, e con una storia umana, un romanzo di formazione, un passaggio di linea d'ombra davvero intelligente. E nel finale si fa, secondo me, cinema civile, senza fare moralismi, senza mandare messaggi, ma semplicemente raccontando una vicenda umana. E temo che quel braccialetto d'oro alla fine ce lo ricorderemo molto molto a lungo, quindi è davvero un film che colpisce molto e che merita le recensioni entusiaste che ha avuto. Però tu ce la facciamo, non è nessun problema. E dopo te lo vuoi dire? Non succede niente. Ma io non sapevo che ha sbagliato, è da sai chiuso il candito. Non lo sai tu che ha questo? Ehi! Ah! Dov'è ragazza? Qui non c'è! Infatti, fatto, via, vai giù. Cammi! Cammi! Sarendi! E come? Arrosto! Mi disse niente, arrosto! Allora, fatti qui, arrosto! Arrosto! E puoi parlare! Arrosto! Arrosto, che? Le atmosfere dell'intervallo di Leonardo Di Costanzo in 22 sale italiane, ma rappresentativo un po' di tutto il territorio nazionale, quindi insomma andate un po' nelle città capozona cosiddette, il film si trova e vale davvero la pena della visione, finché esce ovviamente sottotitolato in italiano per molti tratti, perché è parlato appunto in un napoletano anche abbastanza stretto, quindi non sempre comprensibile ai più, ma film di grandissima tensione, è uno di quei film nei quali non guardi mai l'orologio. Boris Sollazzo, rimani con noi perché fra poco parliamo delle altre uscite in sala in questo fine settimana. La Rosa Purpurea. Arriva in sala in questo fine settimana anche un altro film visto a Venezia, insomma c'entra poco se vogliamo con la mostra del cinema, ma era una proiezione di mezzanotte con una sorta di ola addirittura all'interno del cinema, quando lo squalo combinava le situazioni più cruente del film. Stiamo parlando di Shark 3D, film appunto in 3D che combina, se vogliamo, una sorta di zombie movie, il centro commerciale assediato, una roba molto alla Carpenter, con lo squalo appunto, lo fa con la chiave di lettura totalmente B-movie, forse addirittura neanche citazionista, c'è un B-movie nel senso che è proprio riuscito come un B-movie. Non sappiamo quanto il regista Kimball Randall volesse fare un film che citava i B-movie degli anni 60 e 70. Certo, c'è riuscito benissimo perché alcune scene sono di comicità probabilmente involontaria, ma comunque è un baccanale che alla fine si segue anche con il sorriso sulle labbra, con gli occhialini in testa, per vedere cosa succede in questo centro commerciale sommerso dalle acque sulle rive australiane dopo che uno tsunami ha colpito, c'è anche lo tsunami insomma, ha colpito la costa e ha totalmente allagato questo supermercato nel quale si trovano ovviamente i protagonisti, i pochi sopravvissuti, e cercheranno di lottare per la loro sopravvivenza. Perché? Perché appunto due squali, anzi, si sono infilati con lo tsunami all'interno di questa situazione. Ascoltiamone una clip. Oh mio Dio, che cos'è? C'è un enorme squalo bianco là sotto. Oh, cazzo! Fuori dall'acqua, presto! Aiutaci! Restate calmi, ok? Più urlate, più lo squalo si avvicina! Perché ci gira intorno? È curioso, non capisce cosa siamo. Resisti, ce la faccio! Fate qualcosa! Ehi! Hey! Allora, Boris Sollazzo, se poi vuoi dire proprio una cosa su Shark, te la faccio dire, ma insomma non era per questo che ti avevamo tenuto in onda. In realtà è per parlare di un altro film che arriva nelle sale, e qui invece ci sono seriamente tutte le carte in regola per vederlo al primo posto della classifica il prossimo fine settimana, perché in 665 copie arriva in Italia The Brave, Ribelle, il nuovo film Disney Pixar, l'animazione digitale che tutti e molti, anzi, aspettano durante l'anno. Un film che ha questa volta per eroina una ragazza, una giovane, anche in questo caso mi veniva un'assonanza mentre parlavi dell'intervallo, no? Una giovane principessa che deve lottare contro il pregiudizio, eccetera, eccetera. Qui lo fa in termini animati, la principessa Merida, che è un po' insofferente alle regole di corte e vorrebbe cambiarle sposando l'uomo che vuole lui e non i pretendenti che le vengono offerti dalla famiglia. Che possibilità ha questo ribelle? Anzi, prima sentiamone una clip di ribelle, va. Secondo le nostre leggi, il primogenito di ognuno dei grandi capi clan deve dare prova del proprio valore. Merida, fermati! Una dama persegue attività eleganti. Oh! Vi presento il mio unico figlio. Ha sconfitto un'intera flotta tutto da solo. Con una mano governava la sua nave. Voglio la mia libertà. Ma sei disposta a pagare il prezzo che la tua libertà esige? Allora, Boris, ti stavo proprio chiedendo quale posto può prendere questo Disney Pixar? Siamo solo in uno dei tanti? C'è qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso? Beh, no, c'è molto di nuovo. Diciamo allora che su Shark 3D dico solo che fa acqua da tutte le parti. Su Rebel the Brave, secondo me è una svolta nella storia della Pixar, che forse non neanche a caso arriva dopo un anno che se n'è andato uno dei suoi padri fondatori, Steve Jobs. Si è conclusa, secondo me, anche a livello contenutistica l'unione Disney-Pixar, che fino a questo momento era più, secondo me, una joint venture e meno qualcosa di creativo. Arriva, secondo me, il primo film realmente per famiglie, il primo film che può essere di grande... utilizzo da parte di tutti gli spettatori e non il film d'autore d'animazione che fino adesso avevamo visto, anche se poi c'erano stati grandi successi. C'è uno stile molto Disney in questo ultimo Pixar, c'è tra l'altro la svolta di un'eroina donna, c'erano stati già altri importanti ruoli dato a altri ruoli femminili importanti, però e qui c'è addirittura la preponderanza, sono due donne a tenere le redini del film, la principessa appunto è la madre, questa principessa femminista, questa principessa che vuole andare contro tutti quanti gli schemi, che vuole rompere le regole, lo si capisce fin da quando cavalca nella foresta piuttosto che attendere ai suoi compiti di principessa. Forse è meno autoriale e meno creativo e inventivo degli altri film Pixar, ma forse anche questo sarà il motivo del successo che avrà, a mio parere sarà molto in alto nel box office, perché è di più facile comprensione davvero per tutti, è una storia più lineare e allo stesso tempo però ha tutte le caratteristiche entusiasmanti di un film Pixar, cioè un'animazione di primo livello, una storia importante, forte, trascinante, e poi devo dire che questa principessa dal pelo rosso è davvero una principessa molto molto agile, anche un po' cattiva, fa cose che insomma non sono politicamente corrette, e alla fine viene fuori quasi un thriller di ambientazione d'epoca, quindi insomma credo che sia un ottimo film e credo che sia una svolta nella storia della Pixar, che adesso l'impressione è che inizierà a fare film un po' diversi da quelli a cui eravamo abituati. Chissà se non ce ne pentiremo però a un certo punto, perché come dici tu giustamente qui si allargano un po' gli orizzonti, le prospettive di fruizione. È anche vero che Pixar, che ha sempre comunque fatto grandi, grandi successi al botteghino, lo ha fatto anche perché è diventato un marchio che ti raccontava qualcosa di più, soprattutto negli ultimi tempi, diciamo dagli ultimi parlo di Up, parlo di Wall-E, parlo dell'ultimo Toy Story, sempre facendo riflettere un pochino anche i grandi, e questa era un po' la sua caratteristica. Speriamo questa caratteristica non si perda. Sarà sicuramente una battaglia tutta d'animazione al botteghino, perché al primo posto nel frattempo c'è rimasto Madagascar 3 nello scorso weekend, che è arrivato a 14 milioni di incasso globale, mentre il Cavaliere Oscuro, che è esordito un paio di giorni prima, ha incassato in maniera importante quasi 7 milioni di euro, ma solo 3 milioni e 9 nel weekend, che ne fanno il secondo in classifica. Quindi insomma la battaglia del prossimo, di questo fine settimana, lo scopriremo da lunedì in poi, come è andata a finire sarà probabilmente fra Madagascar e Brave Ribelle. Volevo dire anche che un'altra grande eroina Disney dei tempi non recentissimi ma neanche troppo del passato è stata Mulan. Anche lei era una che come dire, no, si ribellava, si tagliava i lacci che la legavano alla tradizione, in quel caso cinese. Non era un'eroina in 3D, non era un'eroina Pixar, qui invece lo è assolutamente. Quella era ancora, sembrano secoli, l'animazione tradizionale Disney bidimensionale. Altro film, l'ultimo di cui vogliamo, il penultimo di cui vogliamo parlare, poi avremo Monica Guerritore che ci racconta di una piccola commedia italiana molto divertente, ma The Bourne Legacy. E allora torna la saga della gente senza nome e senza storia, che questa volta cambia anche volto. Andiamo a sentire la clip. Come ti chiami? Kenneth Kitson. Da dove vieni? Reno. E darai tutto te stesso a questo programma? Sì, signore. Mano destra, prego. Questa è guarita bene. Sensibilità diminuita? No. Non c'è niente che non faresti per questo paese. E allora questo è il trailer, le atmosfere di Bourne Legacy, di Jason Bourne è rimasto solo il nome, anche nel titolo, ormai la saga è diventata un'altra cosa, persino 007 da qualche decina d'anni, come dire, comunque è sempre James Bond, qui invece è rimasto addirittura il nome Bourne, ma siamo da tutt'altra parte ormai, Boris, qui è un brand che si riafferma con risultati cinematografici forse meno riusciti rispetto alle primissime uscite. Strano il discorso secondo me su The Bourne Legacy, perché Bourne è un, come dicevi tu, ormai è un franchise, non è più una saga, perché cambiano volti, cambiano nomi di battesimo e cambia anche l'impostazione del personaggio, che è completamente diversa. È vero pure però che Bourne non è mai stato uguale a se stesso, neanche quando aveva la faccia di Matt Damon. Probabilmente per il cambio che è avvenuto tra i registi, da Doug Liman a Peter Greengrass, probabilmente perché era un personaggio che si prestava a evoluzioni molto particolari. Io devo dire che questo Bourne Legacy non mi entusiasma, probabilmente non ne sentivamo il bisogno, però è anche vero che non è neanche una delusione. È interessante questo Edward Norton, che secondo me torna a livelli più consoni al suo talento, si era un po' perduto. C'è Renner che si conferma uno dei migliori attori in circolazione, c'è comunque Tony Gilroy che è un grandissimo sceneggiatore della saga di Bourne e che qui dà una buona prova di regia. È un film a mio parere medio, sia nel intrattenimento che dà, sia nel contenuto, sia nell'estetica. È un film che segue il dramma dei registi americani moderni che si ritrovano in un paese che non amano più, che sentono che complotta a loro danno, e specialmente con la CIA, con i corpi insomma delle forze dell'ordine, e lo mostrano in maniera abbastanza esplicita nei film. Ripeto, non è un capolavoro, probabilmente saremmo sopravvissuti anche senza questo quarto capitolo, però adesso che c'è, a mio parere la sufficienza la prende. Allora Boris, grazie per averci così accompagnato nelle uscite di questo fine settimana, al di là e oltre quelle veneziane. Appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana. Viabilità, fra poco con noi Monica Guerritore per parlare di Come non detto. La rosa purpurea. Ancora un film di quelli che escono in sala in questo fine settimana, si intitola Come non detto, ne ascoltiamo subito una clip. È ora di alzarsi. A proposito di alzarsi, Stefania, anche se fossi etero mi ci avresti portato tu con sta fiatella sull'altra sponda, capito? No, I don't care if you don't. Quanti di voi in questo preciso istante stanno pensando che al pane non hai denti? Senti, ho avuto un'idea. Tu questa sera alla cena d'addio fai coming out e risolvi il problema. Edward si trasferisce qui e tu fai felice la tua amichetta, eh? E se invece io questa sera me ne sto zitto, mi faccio gli affari miei? Se la cena deve aggiungere un posto perché vengo a Roma a conoscere i tuoi. Atterra Ciampino alle 5. Non sei nella merda. Ricapitoliamo. I due non sanno che sei gay? No. E tra poche ore il tuo fidanzato viene qui a conoscere i suoceri? Sì. Sei nella merda. L'ho detto. E allora erano le atmosfere di questo Come non detto, altro film italiano che arriva in questo fine settimana in 113 sale. Queste sono quelle almeno che vengono così monitorate dai principali circuiti, quindi un'uscita importante comunque, con una certa presenza e una certa visibilità sul territorio. E le merita questa piccola commedia che è diretta da Ivan Silvestrini con Josafat Vagni, con Francesco Montanari, con Nini Bruschetta e con Monica Guerritore, che fra poco sentiremo, racconta quello che è un momento importante. Ormai è un tema, come dire, molto trattato, lo hanno fatto anche molti personaggi pubblici, quello del coming out, della rivelazione pubblica, diciamo così, della propria omosessualità. Mattia vorrebbe scapparsene dall'Italia per evitare questo momento e andare col suo fidanzato a Madrid, a stare lontano dagli occhi e dalle lingue indiscrete, e invece il fidanzato, come avete sentito nel trailer, gli fa una bella sorpresa e se lo trova a Roma con la prospettiva di dover svelare tutto in una notte ai propri genitori. E chiaramente in questo percorso Mattia ripercorrerà tutte le volte che questo momento gli si era palesato di fronte ma non era riuscito a coglierlo. Monica Guerritore, nei panni di una casalinga un po' dimessa, che deve poi avere a che fare con questa rivelazione proprio dal lato genitoriale, diciamo, è in collegamento con noi. Buonasera signora Guerritore. Buonasera, stavo appunto aggiungendo casalinga disperata. Disperata. Quanto disperata? Cioè, quanto può essere disperata, al di là di una casalinga, una mamma del 2012 casalinga... di fronte a questa rivelazione? Potrebbe esserlo molto, comunque. Non è tanto il problema della rivelazione, perché poi io non svelo, però insomma i segreti vengono fuori uno dopo l'altro, non solo quelli di Mattia, ma la casalinga disperata è per un marito siciliano come Nini Bruschetta, e per una situazione matrimoniale terribile che Mattia vede, monitora, e che invece poi la sera della rivelazione diciamo in qualche modo si rivolta, si rovescia, perché il bello del film è proprio il divertimento del film è proprio questo, che tutti i personaggi hanno un segreto che verrà fuori in maniera molto spiritosa. Quanto tempo ci vorrà? Lo so che è una domanda ovviamente retorica, nel senso che non c'è una risposta, ma è proprio, ormai sono almeno diciamo 15 anni, 10-15 anni che il tema esiste, è sul tavolo, i diritti. Ma non è un problema in questa commedia, che è una commedia divertente. Il problema è superato, è un problema che Mattia ha con se stesso e con quello che esatto. Gli altri si aspettano da lui, quindi gli inciampi, gli incidenti, i momenti divertenti sono tutti autoprodotti praticamente. Sono tutti esatto, autoprodotti, perché quando abbiamo Francesco Montanari, che vediamo che fa la drag queen, che fa Alba Payet e che gli consiglia di come stare tranquillo facendo la drag queen, oppure la nonna che finalmente decide di lavorare a 83 anni, quindi una famiglia in qualche modo che si pone diversa, cioè tutti i personaggi sono quelli più diversi di lui, alla fine lui è il più normale. Assolutamente, infatti proprio alla fine, se vogliamo, è proprio un grande elemento catartico quello poi di far venire fuori le proprie diversità che ognuno ha e che in questo film a un certo punto prendono corpo. Perché non la vediamo un po' di più al cinema, signora Guerritore? Perché a me è difficile che i copioni mi piacciono così tanto. La peggior settimana della mia vita io ho cominciato a sorridere dall'inizio ed è stato un bellissimo film. Il peggior Natale della mia vita non mi ha convinto la sceneggiatura e non l'ho fatto. Questo immediatamente, appena ho cominciato a leggerlo, ho cominciato a sorridere proprio. E quando abbiamo visto l'altro giorno il film col pubblico che rideva, applaudiva, si divertiva, si inteneriva, ho detto bello fare le cose quando uno ci crede fino in fondo, perché io sono contenta di star qui a parlare con lei di questo film. È un film tra l'altro che mette in campo anche un'altra cosa importante, cioè una generazione di attori giovanissimi di cui tutto sommato abbiamo abbastanza bisogno, perché sennò sì. Poi si rischia sempre di mordersi la coda, no? Come Ma sistema cinema. Il regista Ivan Silvestrini è fantastico, si è appena diplomato al centro sperimentale, ha una mano, un'ironia, uno spirito nella ripresa delle situazioni. Lo sceneggiatore Roberto Proia, ma tutti, sono tutti, io sono stata catapultata in un mondo pieno di energia e di divertimento. È una freschezza che si respira questa nel film, e penso sia una delle ricchezze più importanti, sì, di questa pellicola. Sì. Ricordiamola ancora, Come non detto, di Ivan Silvestrini, nelle sale italiane, in tante sale italiane, quindi sì, con una bella possibilità, anche una bella copertura del territorio per poterlo andare a vedere. Grazie mille a Monica Del Guaritore, ci regali qualche film in più. Sempre, arrivederci. Bonjour. Bonjour, maman. Tiens. Rocky a apporté ça pour toi. Come fly with me. Merci, Rocky. Mmh. He's very cute. Boy. Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. E allora le poche parole, i pochi frammenti di dialogo in francese che avete sentito sono quelli di un grandissimo film che noi abbiamo voluto segnalare, sebbene sia già in programmazione alla Cineteca di Milano da qualche giorno, ma lo sarà fino al 12 settembre, quindi chi ha la possibilità di vederlo non se lo faccia sfuggire. Stiamo parlando di Lola di Jacques Demy, uno dei film più inseriti nei criteri anche della Nouvelle Vague per quanto riguarda l'opera del maestro francese, Palma d'Oro a Cannes con il Parapluie de Cherbourg. Ebbene, Lola di Jacques Demy sarà fino al 12 settembre allo Spazio Oberdan in versione restaurata e quindi in tutto il suo splendore. Un film che racconta di una donna molto molto ambita da tanti pretendenti. È una grandissima performance questa che vi vogliamo segnalare. Lo vogliamo fare anche perché, rimanendo in ambiente e in tema Cineteca di Milano, dal 13 settembre, cioè dal giorno dopo in poi, parte il Gran Festival del Cinema Muto, prima al MIC negli spazi dell'ex Manifattura Tabacchi, poi appunto alla Sala Oberdan. Tanti, 8 grandi capolavori del cinema muto con accompagnamento dal vivo, quindi la possibilità di rivedere film come per esempio Il Dottor Mabuse piuttosto che Metropolis di Fritz Lang, con accompagnamento dal vivo con l'orchestra dei pomeriggi musicali, quindi grandissimo livello anche quello musicale, una fruizione che può aprirvi davvero o riaprirvi l'orizzonte del cinema muto, che rimane una delle forme di fruizione del cinema veramente più interessanti e più, molto spesso anche più appassionanti. Si tenderebbe a pensare che senza la parola il cinema perderebbe molto, in realtà spesso ci guadagna qualcosa. E questo è quindi quello che riguarda la segnalazione delle attività della Cineteca italiana. Abbiamo un'altra segnalazione da fare prima di salutarvi, ovvero quella di una iniziativa che è stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, che avrà una sua prossima data il 14 settembre invece, esattamente a Rovereto, ma anche ad Arco e a Riva. Si tratta di Old Cinema. Cos'è Old Cinema? Una sorta di grande ricerca nazionale sulle sale cinematografiche perdute, quelle sale che una volta c'erano e poi hanno chiuso, negli anni sono diventate qualcos'altro, fagocitate spesso da centri commerciali, da negozi di moda, magari demolite addirittura, magari non più attive. Ebbene, si sono presi la briga questi di Old Cinema, che sono veramente matti nel senso giusto, di andarle a cercare, di fare una ricerca ciclopica. Hanno cominciato proprio con il Trentino, il primo step è stato quello, e ne è nato un docufilm alla ricerca delle sale perdute, che sarà appunto il primo evento contenitore di Old Cinema, con appunto queste mostre ad Arco, Riva, Rovereto in Trentino, dal 14 settembre al 14 ottobre. All'inaugurazione interverrà, ovviamente, mi viene da dire, Peppuccio Tornatore, che col suo nuovo Cinema Paradiso ci aveva un po' regalato la nostalgia per questo tipo di sale cinematografiche, che erano anche un tipo di fruizione, un tipo di storia che ci è rimasta molto molto attaccata alla pelle. Tutto questo accadrà in un Old Cinema, cioè quel Cinema Iris di Arco, che è uno dei film ripescati, uno dei cinema ripescati in questa grande ricerca. Quella del Trentino è la prima tappa. I nostri amici, di cui parleremo e a cui daremo spazio nelle prossime settimane, avranno la possibilità di andare avanti con altre regioni. L'obiettivo di questa iniziativa è quella di far riaprire almeno un Old Cinema per regione. Chissà che non ce la facciano. Noi sicuramente da sempre siamo per questa cosa e saremo al loro fianco. Io mi avvicino alla chiusura della nostra trasmissione, non mi resta che ringraziare Paolo Corleoni in regia, Giorgio De Luca e Nadia Zammiti in redazione, e ricordarvi che La Rosa Purpurea è anche su Facebook, cliccando La Rosa Purpurea Radio 24 e appunto cliccando mi piace, lo avete fatto già in molti. Durante questa settimana riceverete tutti i nostri aggiornamenti, sarete costantemente appunto aggiornati sui nostri pareri, ci potete anche chiedere qualcosa in particolare, e sulle tematiche trattate dalla trasmissione. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Franco D'Assisi.